A Mario, te conviene rifiutare. Non ci abbiamo bisogno di un altro senatore a vita del cazzo. Ci avremo già quelli che ci stanno e non fanno un cazzo dal mattino alla sera. E questo dice il popolo di Roma. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Lo stipendio lo so, me lo decurterò. Non andrò al bistrò, ma in mensa mangerò. Casa in affitto, con 5 posti letto, c'è una cosa che è normale, non si può rinunciare alla diaria, noi vogliamo solo la diaria, per una birra e poi, vaffanculo! Tanta voglia dentro me, anche di una pizza a taglio, così vivo pure il grillo. Sai che cosa vuole fare? Parenzo Grillo vuole fare la lista di tutti quelli che non rispetteranno le sue disposizioni sui rimborsi, capito? Ma che è una lista di proscrizione? Una sorta di lista di quelli che non rispettano le regole all'interno del Movimento 5 Stelle. Intanto viene cacciato il siciliano, quell'altro, il vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, Venturino. Anche lui? Sì, sì, cacciato. Non hai letto oggi, naturalmente. Sì, no, ma siamo a quota, quanto siamo? A quota 3, a quota 2? No, ma lascia perdere le quote. Il problema è che durante una riunione oggi... Le purghe grilliane dopo. Ma che purghe? Se uno non rispetta certe regole, se tu ti trattieni i soldi e invece non te li devi trattenere, che cosa bisogna fare? Comunque a questo Venturino Grillo, sai che cosa ha detto? È un pezzo di merda. Intanto Grillo alla camera fa una mezza gaffe, perché paragona la tragedia del porto di Genova alla tragedia di essere alla camera. Senti, tutta la vita entrare dalle sul porto, dal secolo XIX. Guarda, adesso abbi pazienza, deve essere già detto tutto, non lo so, sono cose, sono tragedie. Siamo già qua, che è già una tragedia questa. Vogliamo aggiungercene un'altra. Perché? Perdonami. Hai sentito? Sì. La tragedia di Genova, vogliamo aggiungere un'altra tragedia, quella di essere alla camera. Però vabbè, dai, non esageriamo, non è stata poi una gaffa così clamorosa. Ma come non esageriamo? Vabbè, non è stata così clamorosa, dai. Politico. Per esempio quel manifesto, caro Parenzo. Sono stati dei morti. Sì, sì, quel manifesto. Ma come, sì? Quel manifesto appeso a Macerata da parte di Forza Nuova. Ti piace Chieng torna in Congo, i tuoi amici di Forza Nuova? L'ho visto, quella gente lì, io l'ho detto già altre volte, l'abbiamo presa e portata subito immediatamente in questura, è gente che incita all'odio e alla violenza. So che tu lo difenderai in nome del che tutti devono poter esprimere, ma questo... Assolutamente sì, è così. Ma questo esprimono odio. Allora, questo Venturino, vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, dice che è colpa sostanzialmente del 5 Stelle se c'è Berlusconi, insomma, se i vecchi sono ancora lì a guidare la situazione. E il momento in cui invece ci siamo arrivati all'interno delle istituzioni, la nostra completa, chiamiamola pure staticità, ha creato un po' di nervosismo, e paradossalmente noi che eravamo i vincitori, che abbiamo fondato tutta la nostra campagna elettorale dicendo che alcuni personaggi dovevano essere messi fuori dalla scena politica, sono tornati grazie a noi, grazie al nostro immobilismo, sono tornati alla ribalta in maniera prepotente addirittura. Comunque questi da 5 Stelle ci fanno due marroni così su questa vicenda dei rimborsi e dei soldi. Sì, abbiamo capito, vivete in maniera diversa dagli altri deputati, vi siete votati alla povertà, vi siete votati alla dedizione totale alla Camera, al Senato, non volete prendere soldi in più, lo sappiamo. Senti, intervistati dagli stessi dei 5 Stelle, cosa rispondono? Per esempio, uno dice: ho usato la rete per dormire. Ma chi se ne frega? Ma affitta di un albergo, dormi in maniera normale. Ho usato una rete per dormire. Ma perché devi dormire su una rete? Non è questo, non è la rete, che è? Il web, che dice? È il web? E spiegatemelo meglio, su, il web. Ma che cazzo dite, dai? Allora, io per dormire da un mese e mezzo a questa parte ho usato la rete. Praticamente tu ti metti in contatto con cittadini romani che mettono a disposizione o le stanze o le loro piccoli appartamenti. Io spendevo sui 40-50 euro a notte e ogni settimana cambiavo perché magari hanno poca disponibilità. Sono andato avanti così. Ha usato la rete, ha utilizzato la rete per trovare una stanza, vabbè, non cambia molto. Vabbè, ma questo lo fanno anziché trovare un albergo. Un tale che si chiama Barbanti, addirittura un ma sì, ma perché devono fare gli studenti in trasferta? Cioè gli studenti fuori sede, ma che ma vuol dire? Fare il barbone, può fare il barbone. Appunto, uno vuole fare il barbone. Un tale che si chiama Barbanti. Il takeaway indiano, senti. La vita è una lotteria, fortuna non andare. Per mangiare quello che capitava, siccome i primi tempi, ma anche ora purtroppo, stiamo facendo degli orari davvero lunghi, qualche kebab, qualche pizza al taglio, una volta siamo addirittura andati a mangiare a un takeaway indiano. Addirittura un takeaway indiano, e che? È una cosa normale, cioè il takeaway indiano, non è che gli altri mangiano tutti quanti a ristoranti da 100 euro, eh? Pazzesco, appunto. No, ma per chi se ne frega? Un altro dice un tale che si chiama Businarolo. No, ma questi lo usano come fosse un titolo di merito. Aspetta, vado dalle suore, rientro alle 15. Cerca di collegarti meglio, sennò t'ammazzo stasera. Ci racconti i tuoi lussi da casta qui a Roma? Dove hai dormito? Questo primo mese e mezzo, a gran parte delle settimane, ho dormito presso delle suore. Beh, eravamo in tre, in una cameretta, un bagno unico, una doccia in comune, e purtroppo dalle suore c'è l'orario ristretto, nel senso che alle 11 bisogna rientrare. Ora io dico, in una camera in tre, bagno unico, ma che è sta zozzeria? Cioè, ma che è sta cosa fuori? Una camera in tre? Ma uno deve, per fare il deputato deve vivere una vita degna, normale, un appartamentino, una cosa. In tre, nella stessa camera, con bagni in comune. Ma una roba pazzesca. Ma in Germania lo fanno. Ma che Germania? Scusa, perché signor Grillo in Germania lo fanno? Ma in Germania lo fanno, dormono tutti nella stessa camera. Tutti i deputati del Bundestag. Ma non è vero. Ma lo fanno, anche la Merkel. Ma no, la Merkel c'ha il suo appartamento al Bundestag, ma è normale. Ma quale appartamento? Ma da sempre, vivono tutti nella stessa stanza, cretino. E vabbè, adesso fanno pure tutti, cioè, tutti nella stessa camerata. Tutti insieme, la grossa coalizione nasce lì, ma non lo sai, Germania. Sentire il suono dei miliardi. Siamo qui 800240024 con Oliviero Toscani, che ieri ci ha detto che secondo lui la Gruber è una bambolina pechinese. A te non piace la Gruber? Oggettivamente a me piace, è bella proprio, è fine, è elegante. Mi piace. Ma è una bambolina pechinese, sì. Un oggetto soprammobile. Ma no, a me piace moltissimo perché è una donna di un'eleganza, poi siccome è ma tu sei comunista, quindi quella roba lì. Siccome è Dietlin. Sei comunista, ti piace quelle robe lì che vogliono essere finto ricco, sì, non so come dire, quell'oggetto, un oggetto. La Gruber, un oggetto, 800240024, la Zanzara in collegamento con noi, grande ritorno qui alla Zanzara, europarlamentare di non so che cose, perché l'Italia dei Valori si è dissolta, sciolta come neve al sole, forse rimane ancora la forma, il nome, Gianni Vattimo, buonasera. Ah, buonasera, ma non è affatto sciolta l'Italia dei Valori, abbiamo ancora un migliaio di amministratori locali. Vabbè, insomma, sì, che dai. Continuano a lavorare in Italia e che andranno alle elezioni. Vabbè, è tutto finito, su. Prossime là dove ci sono, quindi ho sciolto un accidente. Vabbè, è tutto finito. Abbiamo raggiunto il quorum per arrivare al Parlamento, perché Napolitano ci ha distrutti obbligando quello sciagurato di Bersani a sostituirci con i socialisti, quelli che fanno. Che c'entra Napolitano? Certo che è Napolitano, è l'odio di Napolitano per Di Pietro che ci ha rovinati. Ah, lei dice? E non so perché mai Bersani avrebbe dovuto. E perché Bersani rispose? Un movimento che aspirava all'8%, sì, con Mencini e i suoi socialisti. Ma vi siete messi con Ingroia? Vi siete messi con Ingroia e con Ferrero? Ci siamo messi Ferrero. Con Ingroia perché ci hanno cacciati da tutte le parti, cioè abbiamo dovuto trovare un modo per tentare di fare una coalizione. Però la foto di Vasto, sì, perché l'ho sciagurato Bersani, l'ha stracciata? Vabbè, ma roba vecchia solo ormai. Perché Napolitano gliel'ha imposto, non c'è un'altra spiegazione. Senta, Napolitano come contento lei della relazione di Napolitano, oppure uno dei peggiori presidenti della Repubblica, caro Vatti? No, non è stato uno dei peggiori, certamente, ma non è uno dei migliori. Ha salvato Berlusconi non andando alle elezioni quando il centro-sinistra poteva stravincere. Sì. Gli ha permesso di comprare svariati deputati, come adesso il Tribunale di Napoli gli rimprovera. E che devo fare? Non so, saranno degli errori, non voglio dire che sia un atto di disonestà, ma sono errori madornali. Cacciati in questa situazione. Ma cioè, ha anche un po' violato la Costituzione, secondo lei? Ma sa, la Costituzione ognuno la tira sempre, poi lui ha tutti i suoi esperti, quindi forse non ha violato la Costituzione, nel senso che il governo di Monti è stato effettivamente approvato, sostenuto dai partiti, però l'ha inventato lui Monti, chi cavolo conosceva Monti? Vabbè, Monti ormai inventato. È superato ormai Monti, è superato. Sì, lo so, però Napolitano inventando Monti ha preparato tutto il seguito. Senta, ma lei non è che mi è diventato un po' grillino, Vattimo, no? No, io simpatico. Per chi ha votato? Io ho votato per Ingroia, ovviamente. Ah, per Ingroia. E che ne so? Era il mio partito. Cosa vuole che faccia? No, però i grillini sono tra i più simpatici di tutto il baraccone. Salvo quando sono così moralisti, con questa storia dormono sulla rete, oppure usano la rete, che è tutta un'altra cosa. Mi trovo leggermente una retorica pauperistica che non mi piace, non vorrei vedere tutto grillo. Lei quanti soldi prende al Parlamento Europeo? Vattimo. Io prendo 6.000 euro al mese, netti, 6.000 netti. Poi ci sono i rimborsi, le diarie, eccetera. Rimborsi, però le diarie sono tutte inutilizzabili, nel senso che ci sono i collaboratori. 300 euro al giorno quando uno va a Bruxelles. Ho capito. 300 euro al giorno, che cosa crede? Io non dormo sulla rete, naturalmente. Cerco di dormire in un albergo. Un albergo a Bruxelles o a Strasburgo costa 150 euro. Vabbè, lei dice che 300 euro al giorno per i rimborsi è poca roba, lei dice. Certo, cioè, voglio dire, nella mia prima legislatura, quando ero ancora ricco, perché noi deputati europei guadagnavamo come i deputati nazionali. E allora li avevamo. E poi soprattutto viaggiavamo con dei biglietti a forfait. Sì, me lo ricordo, che è tutta un'altra cosa, ragazzi. Cioè, adesso lei dice quei soldi che guadagna da parlamentare europeo servono proprio per campare, il minimo indispensabile. No, servono per campare abbastanza decentemente. Io non dico che mi serve più di 6.000 euro al mese per vivere. Però lei li spende tutti, insomma, no? Beh, li spendo tutti, ma molto in beneficenza, cari amici, voi non lo ignorate tutti. No, noi ignoriamo, noi, non per carità. Però lei dice con 300 euro al giorno, poi alla fine non è che poi sia una grande cosa. No, 300 euro al giorno fuori casa, al ristorante, in albergo, voglio dire, non ci si guadagna, ecco, forse se uno è... Ma lei ci ha perso? Lei ci ha perso da quando era professore a fare il deputato? No, da quando ero professore guadagno più o meno la stessa cosa, quindi va bene, però certo... Non ci ho guadagnato molto, ma voglio dire... Tutte non è importante, no? Mi sembrano appunto delle questioni di grillo caprino. Di grillo caprino, bella questa. Tutte questioni per la testa. Mi rompo i coglioni. Lo so, però cioè, dell'utile, non è che se si rompe i coglioni a Santo Domingo è colpa nostra, Mi rompo i coglioni. Ho capito, ho capito, non è colpa nostra però, Mi rompo i coglioni. Va bene, abbiamo capito. Si rompe i coglioni a Santo Domingo. Adesso mancano 8 giorni. Cerchi di rilassarti. C'è il mare. Poi... Mi rompo i coglioni. Va bene, abbiamo capito. Parenzo, glielo dici? Glielo dici tu o no, Parenzo? Ecco, appunto, adesso è a Santo Domingo, non è a Lucerdone. Punto, dai, su. Mi rompo i coglioni. Oggi, Grillo, certo. Oggi Grillo ha detto, Vattimo, che Berlusconi dovrebbe essere in galera. Lei è d'accordo? Boh, non so se certo. Non è ancora definitivamente perché la Cassazione deve ancora intervenire. No, ma in un paese normale, lui dice, già sarebbe in galera. No, in un paese normale aspetterebbe il giudizio della Cassazione, certo non sarebbe quello che condiziona l'esistenza del governo, perché i partiti sarebbero fatti furbi prima. Invece, data la sequenza di eventi che ho descritto testé, cominciando dal fatto che Napolitano non ci ha fatto andare alle elezioni a tempo debito, tutto segue, quindi adesso ma il PD alleato perché non è condannato in modo definitivo. Sì, ma il PD alleato con il PDL le fa schifo? Beh, certo fa, non so, lo dica, le fa vomitare, le fa vomitare questa cosa. No, vomitare no, nel senso che un buono stomaco, sono vissuto in Italia in tutti questi anni, quindi posso sopportare molto. Però questa roba qui è il suicidio totale, cioè di nuovo, era possibile immaginare una porcata simile se andavamo alle elezioni al momento giusto? Vabbè, ormai è roba passata. Avremmo però avuto un governo di centro-sinistra, come altri governi, certo con le sue difficoltà, ma ci hanno fatto credere, uno, che stavamo per fallire completamente, che avevamo bisogno, non c'erano più soldi per gli stipendi. e questo non lo so, questo è già un atto invece di adesso, adesso il PD si è alleato con Brunetta, ma lei Brunetta che ancora dà le carte, come lo giudica il signor Brunetta? No, io Brunetta lo trovo molto simpatico, peraltro politicamente lo strangolerei, ma per tutto il resto mi va benissimo. Siamo stati colleghi al Parlamento Europeo, mi sembrava una persona simpatica, abbiamo chiacchierato tante volte, mi ha spiegato delle cose che non sapevo. Però lo strangolerebbe? No, politicamente, lo strangolamento sì, certo. Politico sa com'è. Comporta una grande amicizia personale eventualmente, la permette almeno. Lei dice? Insomma, non, io non ce l'ho con Brunetta, ce l'ho con il fatto che in questo paese... Dopo tutto il casino che c'è stato, le oggettine, le leggi a persone, eccetera, la condanna, Berlusconi comanda il governo e non solo, ma i suoi sondaggi sono in salita. Se volete di più, se ne faccio una ragione. Ma per carità, io infatti. Vada in Corea del Nord. La Corea del Nord, tanto come vi rispondo sempre, quando mi dite cosa succede in Corea del Nord, io parlo della lesbiana, della lesbica siriana. Quando mi avrete spiegato com'è nata la storia della lesbica siriana, che non, non è mi dica, esistita, che batti, è una storia, in Corea del Nord si vive male, su, diciamo la verità. Non so come si vive, tanto bene non si vive, perché in Italia quelli che non sono deputati europei, non lavorano alla Radio 24, crede che vivono tanto bene? No, vivono meglio, chiunque vive meglio in Italia rispetto agli abitanti della Corea del Nord, chiunque. Ma figuriamoci, tutti i cassintegrati, i giovani disoccupati, non c'è solo il problema del paese, il problema di avere un progetto nella vita. Cioè lei vuole dire che in Corea del Nord almeno mangiano tutti? Io credo che mangino, comunque se non mangiano non dipende certo dal regime comunista, dipende dal fatto che ci sono delle situazioni internazionali, non lo so, io non voglio difendere la Corea del Nord, voglio solo dirvi, quando parlate della Corea del Nord o della Siria eccetera eccetera, che metà di quello che pensate sono delle palle. D'accordo, per esempio a Cuba si vive meglio che in Italia? Certo, Cuba sicuramente, io ci starei domani. Domani, a me ci starebbe perché c'è il sole. Ma c'è il sole, ci sono i cubani, c'è Fidel Castro, c'è una tradizione di gente che si impegna politicamente. I cubani sono belli, gli uomini cubani sono bellissimi. Non so se sono belli, alcuni belli, anche brutti. Non è questo il criterio di scelta del mio stato ideale. Professore, la Corea l'avrei già buttata via del tutto. I coreani non sono al massimo. No, però i colombiani, come sono i signori colombiani? Per esempio, lei è stato recentemente in Colombia. Sono stato recentemente in Colombia, ma anche lì non ho visto delle cose straordinarie, però sono persone, non ho la minima idea, devo dire, perché ho frequentato c'è una grande differenza tra i colombiani ricchi e i colombiani poveri. Vabbè, avete ragione a me. Cioè, la vera questione è una storia di classe, non è una questione di... Parenzo, che vuoi chiedere? No, io no, sono ancora tutte le volte imbalzito. Sono più belli, perché sono più curati, sono più belli di me, hanno fatto ginnastica da piccoli. Vabbè, lei non è che è povero, Vattimo, non è che... Caro Vattimo, da piccolo non ero tanto ricco, effettivamente. Nessuno mi ha mai mandato da maestro di ginnastica. Ho imparato a sciare con degli scarponi e degli sci di prestito, vecchie robacce. È fidanzato lei, signor Vattimo? Come? È fidanzato o no, signor Vattimo? Non sono fidanzato. Oh, sì. Sono troppo vecchio ormai. Vabbè, perché uno è un compagno, no? Non ce lo può avere. L'importante è che sia compagno. Lei dice anche. Scherzo, ragazzacci. Che c'è, no, Parenzo? Come andiamo, professore? Come andiamo a complotti? Il grande complotto esiste, ovviamente. Una delle cose più sicure al mondo è che ci sono i complotti. Sicuro. Figuriamoci, ma come credete, i banchieri che si riuniscono una volta al mese in qualche posto segreto? Letta, per esempio, che cos'è? Il terminale di qualche complotto, secondo lei? No, poveretto, neanche lui non ne poteva niente, neanche Andreotti ne poteva niente di nessun complotto, ha fatto solo di necessità virtù. Noi siamo incastrati in una situazione in cui abbiamo fior di bombe atomiche americane ad Ariano, e quindi respiriamo se gli americani ce lo permettono. Questa è la situazione, ragazzi. Giornale radio, a tra poco, grazie. Voglio dire, tutte queste questioni mi sembrano appunto delle questioni di grillo caprino, di grillaggini, di grilli per la testa. Intanto c'è Renato Brunetta che infierisce sul Partito Democratico, caro Parenzo, infierisce, sentilo. Questo momento è un PD acefalo, senza leader, indeciso a tutto, assatanato comunque di potere, che ha occupato tutte le cariche dello Stato pur non avendo una missione, pur non sapendo cosa fare. Però non sapendo cosa fare si prende intanto la Presidenza della Camera, la Presidenza del Senato, la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio, la maggior parte dei ministri, la maggior parte delle commissioni, intanto così, come dire, per non saper né leggere né scrivere. E poi dirà agli italiani per fare che cosa, perché attualmente non si sa cosa voglia fare il Partito Democratico. Sempre alleati, Parenzo, sempre alleati. Senti Gasparri invece, la storia del congresso PD, aspetta, la storia del congresso PD ammorba l'Italia. Il problema del congresso permanente del Partito Democratico sta ammorbando l'aria del PD e della vita italiana. Noi abbiamo atteso dalle dimissioni di Monti, che si è dimesso l'8 dicembre, circa 6 mesi per fare il governo, le elezioni. Facciamo altri 15 giorni di moratoria, facciano il congresso. Berlusconi a TGCom 24 sulla questione dei processi, eccetera, una parte della magistratura mi vuole distruggere. In generale, però, diciamo la verità, cari ascoltatori della Zanzara, voi camionisti, tassisti che siete in giro, i toni non sono più quelli di una volta, non sono più quelli delle condanne. Sì, i giudici mi vogliono fare fuori, adesso c'è una manifestazione a Brescia, però insomma l'ordine è calma, calma, come direbbe Prodi, con calma, tranquillità, senza troppe urla. Bisogna fare una riflessione pacata nel paese. Basta chi, basta Cruciani, le stagioni di Vivaldi, rileggere gli atti dell'Assemblea Costituente e dare un nuovo senso civico, civismo al paese. Ma veramente io continuo a fare la zazzara, professor Prodi. Comunque Berlusconi, troppe parole. Beh, io su quasi più di 40 processi, credo 33 già finiti, il giudice a Berlino l'ho già trovato in Italia e quindi confido di trovarlo ancora. Venuta nel mio spazio sotto il salice, non stare lì così, mettiti comoda. In realtà poi Berlusconi ha detto i giudici mi vogliono far fuori, eccetera, eccetera, altre cose pesanti. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Arriva il decreto per sospendere l'IMU e rifinanziare la cassa integrazione. Letta, difficile il cammino del governo, ognuno faccia la sua parte. Dopo la conferma della condanna per i diritti TV, i magistrati di Napoli vogliono processare Berlusconi per la compravendita di parlamentari. Sabato PDL in piazza a Brescia, contro Silvio accanimento giudiziario, TOG senza controllo, la NM pericolosa delegittimazione. Grillo sul blog in un altro paese, Berlusconi in galera e ai suoi parlamentari metteremo online i nomi di chi fa la cresta, espulso Venturini. Sabato l'assemblea del PD alla ricerca di un nome condiviso per guidare il partito fino al congresso, Renzi ci sarò ma non mi candido. Napolitano commemora Aldo Moro e tutte le vittime del terrorismo, dalla violenza anche solo verbale, rischio eversione. Mentre si cercano ancora i due dispersi dell'incidente di Genova, si fermano i lavoratori del porto, basta morire sul lavoro. La zanzara stronza. Che gira, che ronza. Le meravigliose imprese qui alla Zanzara del nuovo segretario della Commissione Esteri del Senato, Antonio Razzi. La zanzara danza. Ci sono alcune mansioni? Mansioni? Sì, ma comunque che c'è? Che ti frega? Guardare i verbali, guardare i verbali. Le votazioni, sì? Scrutinare quando ci sono degli argomenti da votare, sì? Ci sono parecchie cosettine. Sì. Non ci si ammazza di lavoro, Non è che ci abbiamo la zappa in mano. La questione dei Marò, Berlusconi l'avrebbe già risolta. La questione dei Marò, guarda, se era per lei, Berlusconi, sì, presidente del Consiglio, sì. Io credo che nemmeno una settimana di prigionia faceva, che già stava in Italia da molto tempo. E come ha fatto con gli altri, sì. Quando c'è stato qualche... Cioè, pagava? Ma non pagava niente. Ma come no? Lui, lui è un grande, conosce, sì, conosce tutti i presidenti. Andava del lì. Mondo, sì. E trattava lui personalmente, certo. Ah, non c'è senza dubbio. Problemi. Beh, la cosa più straordinaria è la Corea del Nord. In Corea del Nord ci si potrebbe andare addirittura in vacanza a Pyongyang, eh? A Pyongyang si sta tranquillamente bene. Uno ci può andare a fare le vacanze tranquillamente, che non ha problemi. Beh, insomma, io non so nemmeno se lui sappia dov'è Pyongyang, Parenzo. Cioè, secondo me si è un po' sbagliato qui, eh? O no? Un po'. Ma ci sei oggi oppure stai al cesso? Ma non certo che ci sono, stavo, volevo dirti che per me però la notizia bomba della giornata, la, sì, la più avanti. Grande, ma allora avanti. Adesso il PDL che chiama la piazza dopo la condanna di Berlusconi. Vabbè, lo sappiamo, dunque. E passi, lo sappiamo, ma poi? Perché è normale, e passi. E il presidente della commissione giustizia, il signor Nitto Palma, che è una persona sola, sì. Non sono in due, non ci sono. Vabbè. Nitto e Palma. Quale altra banalità? A trovare il signor Cosentino, sì, allora? E questo vabbè è giusto, andare a trovare allora? un carcerato, e poi dice pure che secondo lui è innocente, viste le beh, carcere. Beh, allora qual è il problema? Non ho capito, perché in carcere della commissione. Ma qual è il problema? Qual è il problema? Ma che dici? Ma di cosa dici... stiamo parlando? Ma sei cretino, cioè come al solito dici le solite parlando? Ridicole banalità. Come, insomma, come voleva si dimostra, le solite ridicole banalità. Adesso a Nitto Palma è impedito dire che una persona ancora sotto giudizio secondo lui è innocente. Vabbè. Hai capito perché lo volevano alla presidenza della commissione di giustizia? Sì, per dire che Cosentino è innocente. Sì. Delle leggi per i cittadini. Hai capito tutto. Erga omnes. Hai capito tutto, sì. Erga omnes. Morte lei, Ma perché se non hai fatto un cazzo durante il giorno devi venirci a raccontare delle banalità terrificanti come queste? Cioè, io questo vorrei capire. Cioè, perché se non ti sei preparato a dire nulla di originale, perché apri la pagina internet, te leggi il titolo e poi dici no, ma però tutto il giorno che studio dossier sul Nitto Palma, sì, le cose, sul Nitto Palma, sì, glielo dico che se lo vedo gli do una bastonata in testa a questo io. Beh, senta signora, però se continua così il busto di suo marito non lo troveremo più, perché io mi ero messo a disposizione. Non mi secchi, non stia a seccarmi. No, non è che la secco, ho provato ad aiutarla da mesi nella ricerca del busto ma di suo marito. Ma non faccio il cretino, non faccio il cretino. Sempre razzi, sempre razzi. Mussolini ha fatto delle cose meravigliose, ottime. Quante cose buone ha fatto Mussolini, tante, eh? Ah, guarda, dobbiamo dire che le ultime opere l'ha fatto lui, le ultime grandi opere che c'è in Italia, sì, l'ha fatto lui. Cioè io non sono di quel partito, no, ripeto, però bisogna riconoscere, però, quante cose buone ha fatto. Quelle che è fatto. Lei lo sa, ma siamo qui Giancarlo da Padova. Buonasera Giancarlo. Salve Cruciani, salve Parenzo. Allora mi sembra sempre la solita storia, no? Cioè? Oltretutto avete fatto anche ascoltare la... Non ho capito, scusi, parli meglio Giancarlo. Mi sente? Sì, pronto? Dica. Allora, intanto volevo dire che è sempre la solita storia, sempre ad attaccare il movimento, no? Ma chi? Mi sembrate un po' voi. Ah, noi attacchiamo sempre il movimento, sì. Mi sembra un po'. Sì. Sembra noi critichiamo. State giocando fondamentalmente. Noi non giochiamo a nessun gioco, lei non ha capito nulla come al solito. Cioè, io non ho capito nulla. Infatti, è lei quello che capisce più di tutti. Ma io non ho detto che capisco meglio degli altri, ho detto che lei non ha capito nulla. Perché fate lo spettacolo, divertitevi. Non giochiamo a nessun gioco noi, non giochiamo a nessun gioco. Facciamo una trasmissione radiofonica, non abbiamo nessuno dietro, non abbiamo nessun nemico, eccetera. E pensiamo con la nostra testa. Se sentiamo delle cose che secondo noi sono delle follie, lo diciamo. È consentito questo oppure siamo per forza delle capiedi? Lo ha detto lei questo? L'ha detto lei. Lei che cosa pensa? Io penso esattamente quello che ha detto. Benissimo. Lei, che siete delle capiedi, sì. Cercate sempre la notizia a qualsiasi costo, quello è il problema. Ah, che cosa bizzarra questa cosa qua, è una cosa strana questa cosa qua. Lei che mestiere fa nella vita, scusi? No, io sono disoccupato. È disoccupato, vabbè, non fa un cazzo dalla mattina alla sera, benissimo. Esatto, sì, non faccio un cazzo, fondamentalmente faccio quello che fate voi, solo che non vengo pagato. Beh, la differenza è questa, gli rode il culo a lei, le rode il culo. No, assolutamente. Amico mio! Non mi rode il culo. Amico mio! Vabbè, ma che vuole? No, niente, così, volevo fare anche complimenti a Parenzo. Perché cosa? Mi sembra una persona estremamente intelligente. Sì. Aia. E di conseguenza merita solo i complimenti, insomma. Scusi un attimo, noi abbiamo semplicemente detto che questa mania del pauperismo, cioè di sembrare poveri dormendo in 4-5, stasera abbiamo detto solo questo, dormendo in 4-5 dentro le stesse stanze, è una follia. Ma non è una follia. Non è una follia. Allora, se a lei, quello che sta succedendo fondamentalmente. Se a lei piace vivere in tre nella stessa camera con un bagno in comune. Non le piace vivere. Se le piace così. Ormai. Ma chi l'ha detto? Ma ci vivrà lei così in tre nella stessa stanza? Io non ci vivo in tre nella stessa stanza. Ma certamente, ma si sta bene così anche. Io voglio vivere in una casa. Io voglio vivere in una casa di 200 metri quadrati. Ha capito? Con tre bagni. Ha capito? Non vivere in una stessa stanza in tre con un bagno in comune. Ha capito o no? Così è, ma lei molto probabilmente se lo può permettere, ma no, come se lo poteva permettere prima. L'aspirazione deve essere questa. Magari quando faceva l'università. Ma quelli non fanno l'università, fanno i deputati della Repubblica, abbiamo la borsa, torniamo subito. Cornute che non sono altro, questi sono dei cornuti. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Gli unici a non avere capito che quella delle riforme è l'unica strada per portare l'Italia in sicurezza sono purtroppo quei magistrati politicizzati, quelli accecati da un odio pregiudiziale che mi vorrebbero interdetto e politicamente morto. Allora, sembra che i toni si alzino, ma in realtà Berlusconi dice: non saremo noi a mettere in crisi il governo. Ma non saremo certamente noi a mettere in crisi questo governo. E certo, queste sentenze arrivano in un momento cruciale, proprio quando stiamo cercando di tirare l'Italia fuori da... Non lo vedi, ma spegni la luce, passa dalla TV. Ti ha beccato, allora Oliviero Toscani contro Lilli Gruber. Gruber rifatta. Senti, la Gruber è rifatta secondo te? Ma la Gruber, madonna, gli costerà 40.000 euro l'anno come minimo. Ma no, che, come si fa a sapere? Ma non è vero, dai. Scusa, ma di più, di più, di più. Scusami un attimo, ma no. Oliviero, ma la Gruber, per il fatto che è rifatta, attira i maniaci e i violenti? Ma no, ma attira questo strano senso della seduzione. Ma si deve sedurre. Raccolti le notizie. Ti ho inseguita. Siamo qui 800 24 00 24. Sergio Torino, buonasera. Buonasera a tutti. Rapidamente volevo solo condividere il mio pensiero sui grillini che si lamentano di questa diaria, di questi stipendi sì. di compagnia. Credo che abbiano aderito a un movimento che aveva delle regole. Sono lì per caso, perché non è gente che ha delle qualità particolari, devono fare un certo tipo di lavoro, lo devono fare, non sono lì per prendere uno stipendio, quindi è giusto che retrocedano quello che è dovuto, si facciano pagare un rimborso spese a piedi lista e la smettano di piangere e fare queste cose. Lo stesso Mastrangeli, anche lui espulso dal partito e compagnia, cioè è lì, ma lì non per una questione di soldi, però va bene, però è una questione che è andato lì dalla signora, ma ha comunque infranto delle regole e tutto sommato mi pare di aver no, ma il principio è giusto, però ha preso 62 voti con 64 sì. 64, lui deve tornare a fare il poliziotto con la moglie cubana, tranquillo, e la smette, altrimenti sta lì e sta alle regole di quello che però, deve scusi, fare. Però scusi Sergio, ma com'è giusto, scusa? No, però teoricamente è giusto che se uno infrange le regole possa essere espulso dal Movimento 5 Stelle, come questo qua adesso siciliano, questo Venturino che non restituisce una parte della diaria da febbraio, almeno secondo le accuse. Ma è stato espulso con regole totalmente assurde, veramente, ma come fai a difendere l'indifendibile? Ma è una cosa pazzesca. Ma tu non le conosci nemmeno ste regole, ma di che parli? Non le conosci nemmeno, ma le regole. È stato espulso per mandato, non c'è stata nessuna votazione online, ma di cosa stai parlando? Stefano, provincia di Asti. Stefano, provincia di Asti. Sì, buonasera. Dica. Buonasera. Io devo fare un ringraziamento al signor Cruciani e una richiesta al signor Cruciani. Il ringraziamento è che più invita il signor Vattimo e più noi andiamo bene, perché quando lui parla sicuramente... Ma noi chi? Noi del centrodestra, io sono un elettore del centrodestra. Allora? Perché lo slobismo e l'idiozia di questa persona è superiore a ogni aspettativa. Vabbè, allora? E la richiesta è: se lei gentilmente mi fa da intermediario, io sono disposto a pagare il biglietto di andata solamente a Cuba, al signor Battimo. Sì, ma i soldi... rimane là. Però i soldi ce l'ha per andare a Cuba il signor Battimo, guadagna anche al mese 6.000 euro netti. 6.000 euro al mese? Sì. No, perché 300 euro di diaria al giorno fa un po' fatica, poverino. Dice che fa fatica a mantenersi a Bruxelles con 300 euro al giorno di diaria. So. gratis al giorno. Che vuole fare? E non ha parlato degli altri rimborsi che lui sì. prende, come prendono tutti peraltro. Va bene, grazie. Giovanni da Ragusa, buonasera. Ma stasera non c'è qualcuno che combatte qui? Pronto. Giovanni da Ragusa, buonasera. Pronto, buonasera. Vada. Chi è, mi sente? Sì, la sento, Giovanni. Ah, senza staccare, perché sennò mi ingazzo, Volevo dire io una cosa. Vabbè. In Italia siamo dei scimoniti tutti. Votiamo, sempre votiamo quelli che sono corrotti. Sì. Movimento 5 Stelle, che sono onesti, vogliono ritornare i soldi, vogliono rimborsare tutto. No, tutti l'attaccate. Ma come mai? Come mai? Io vorrei capire. Ma chi li sta attaccando? Chi li sta attaccando? Per me si possono fare rimborsare quello che vogliono. Io ironizzavo sul fatto che dormivano in treno nella stessa stanza a Roma. Ma possono dormire dove vogliono. Noi stiamo morendo di fame. Loro si battono per noi. Ma lei non sta morendo di fame per niente. Vogliono rimborsare le spese che ci fregano, tutti i soldi nostri, i pensionati, i lavoratori. Sì, ma lei e che noi fa? Noi che facciamo? Sì. Votiamo questi delinquenti che sono là, che si fottono tutti i nostri soldi. Fanno sempre in televisione a fare dei show. Ma quali ma ci vogliamo svegliare, signor Cruciani? Lei è molto intelligente, è colto. Io sono la terza elementare, sono stato a scuola serale di mattina, perciò. Vabbè. Ma lei è intelligente, può capire queste cose. Dobbiamo portare avanti un movimento che difende l'operaio. Sì, l'operaio. Non quelli che si fottono i soldi dei pensionati. Ma chi minchia mi rappresenta questo mondo che ha distrutto tutto, Infatti, io lavoravo benissimo e ora non riesco più a trovare lavoro. Ma secondo lei è giusto o no? Ma che lavoro fa lei, Giovanni? Facevo le traude e sono fallito. Vabbè, ho capito, non è mica sarà colpa di Monti perché è fallito. Ma perché la colpa di chi è? Dei politici che amministrano male, fregano i soldi, tutti corrotti. Ora c'è un movimento che ci sta svegliando e ci vuole portare in una strada, vuole fare pulizia, vuole togliere questi politici ladri. No, tutti l'attaccano, i talk show del gebbio. Io la televisione non la guardo più perché mi fanno schifo. Scusi un attimo, Giovanni, ma lei è incazzato, perché non va qualche volta sotto Palazzo Chigi a protestare? Come? Non ho capito. Perché non va lì a Palazzo Chigi a protestare se è così incazzato? Io a Palazzo Chigi non ci vado perché sta confidenza a questi politici non gliene voglio dare. Vabbè, ho capito. Che cazzo devo protestare? Confidenza. Ma che confidenza? Cioè... Ma che confidenza a questo che non ti pigliano nemmeno di io non lo so. Invece di stare qua, il Grillo è venuto a Ragusa in mezzo alle persone e ci ha dato anche una parola di incoraggiamento. Sì. Cosa fanno i politici? Se ne va, se ne va a fottersi i soldi e ancora ci vanno appresso, i voti, gira e rigira e ci sono sempre loro. Ma vogliamo cambiare questi politici, sì o no? L'abbraccio, Giovanni. Paolo ciao, da Udine. State bene, ciao. Paolo da Udine. Sì, salve Cruciani. Allora? Niente, no, io voglio solo dire una cosa. Sì. Mi sembra un programma... Sì, ancora questo... ancora... Sì. Io ancora mi domando come potete fare una roba del genere. Comunque, vabbè, io parlo di per me. Ma cosa? Ma di che sono sta parlando? Valera. Lei è senza un disoccupato, che cosa ci posso fare? No, e poi anche... Si rimbocchi le maniche, ma... Che cosa... Ma io mi sono sempre imboccato le maniche. Allora? Ma mi domando, voi due, che cosa fate lì a parlare di cosa? C'è gente che muore di fame, gente che si ammazza, capito? Ma che vuole da noi? Gente che si ammazza, voi vi pensate le cagate sulle cagate una dietro l'altra, ma state scherzando? La gente non arriva a fine mese, ma vi rendete conto? E voi state lì seduti in una poltrona a parlare dei cazzi vostri anche, di parlare con... Sì, mi allora... un'assurdità. E allora? Ma state scherzando. E allora? E voi prendete anche soldi. Sì, allora? Vabbè, qual è il suo problema? Cavolo, mi sembra... È un problema per lei? No, perché mi viene anche un nervoso, cioè io devo imboccarmi le maniche e voi state lì a anche insultare la gente e dire anche esatto. Le tue opinioni, tu vieni anche a insultare. Sì. Dai, bravi. Sì. Complimenti. Lei si deve rimboccare le maniche, si deve fare un mazzo così e io invece faccio il mio mestiere. L'Italia non va avanti con voi, non va avanti con noi, non va avanti. Ma non è che deve andare avanti con noi l'Italia. Ma non deve andare avanti con noi. Né avanti né indietro. Ma non deve andare avanti con noi. Eccolo l'altro, è sempre al telefono. Ieri non era in trasmissione, adesso lei è sempre nel telefono a parlare. Ma perché qual è il suo problema? Anche critica, no, è bello che se tu dici la tua opinione qua in una radio così, vieni anche criticato, posti dalla parte del deficiente, dici, porca puttana, questo è un deficiente, quello che parla è un deficiente, allora sono tutti deficienti qua. l'Italia è un paese di deficienti, secondo voi? Ma lei si è sfogato? Uno dice per la radio una tua opinione, perché sì, secondo me questo non va bene così colà, e questo qua, cioè voi due dite, sì, questo qua è arrivato il primo coglione che parla, così, dice, ah, povero deficiente, non capisce niente, lei, poi anche lei. Cioè, ma non si vergogna a insultare le persone per la radio? Ma non si vergogna, c'è gente che muore di fame, lei insulta così a gratis. Ah no, gratis, viene pagato. Si è sfogato o no? Si è sfogato o no, signor Paolo? Sì, vabbè, sai. Si è sfogato abbastanza? Beh, lo sfogatoio quotidiano, caro Parenzo, lo sfogatoio quotidiano, ma abbiamo con noi... Ha una funzione sociale? Sì. Abbiamo con noi Elvira Savino, deputato del PDL, buonasera. Buonasera. Come sta, cara Elvira? La bellissima Elvira Savino. Che ne sai che è bellissima tu? Adesso, che cosa ne sai che è bellissima? Beh, io intanto l'ho vista qualche volta a Montecitorio. E poi ho visto le sue foto su Google, basta mettere Savino, Google. Ma sì, ma è un deputato, non puoi subito dire la bellissima Savino. Allora, cioè, va bene, ma non ho capito, se dico che è un cesso... Ecco, non ti si sente come al solito, vabbè, ma adesso ripristiniamo la comunicazione con questo imbecille di Parenzo. Onorevole Savino, ma Berlusconi secondo lei è perseguitato? Secondo lei? Non lo so, secondo me, mi dia una sua opinione, quanto è perseguitato? Cioè è l'uomo che è stato più perseguitato nella storia italiana, secondo lei, dal punto di vista giudiziario? No, ma la mette sul piatto d'argento, è in assoluto sì, l'uomo più perseguitato della storia italiana dal punto di vista giudiziario. Mondiale anche, si può dire. Forse o no? Sì, forse anche mondiale. Cioè, ma chi è proprio, cioè, l'emblema di questa persecuzione? Chi è, secondo lei? Signora Boccassini, per esempio. Lei che cosa pensa, signora Boccassini? Io penso che ci sia un accanimento fortissimo nei suoi confronti, perché lui è effettivamente imbattibile sul piano elettorale. Ah, è per questo, è imbattibile, eh? È imbattibile. Sì, Parenzo c'è o no? È tornato o no? Certo che ci Cretino, sono. Ci sei? Sì. No, finalmente, sì. No, perché sai, c'è una trasmissione radiofonica da mandare avanti, no? Se vuoi... È imbattibile, ho sentito già l'elogio. Vuoi portare avanti? È imbattibile dal punto di vista elettorale, questo è un dato di fatto. Ho sentito già l'elogio del principe. No, ma non è un elogio del principe, è un dato di fatto quello che ha detto l'onorevole Savino. Questo non si può discutere, uno può essere anche anti-berlusconiano di ferro, però che sia imbattibile dal punto di vista elettorale non c'è dubbio, o no? È il terzo partito, quindi... Cioè. No, ma quale terzo partito? Ma che dici? Ma perché? Non capisci un cazzo. Ecco, sì, non capisci nulla. Allora, ecco, è arrivato lui, Pannella, come al solito. Senti, onorevole Savino, io voglio capire una cosa, ma questa persecuzione di Berlusconi, no? Cioè, secondo lei è una roba che nemmeno, cioè, che paragone si può fare? Cioè, nemmeno il più grande criminale, nemmeno Al Capone ha sofferto così questa persecuzione? Cioè, come lo trattano? Come un criminale? Non lo so, mi dica. Io... Lo trattano come un delinquente, ditemi voi se è normale che il leader del principale partito di centrodestra, sì, che ha, diciamo, raccolto 10 milioni di voti, si può eliminare nell'ultima competizione elettorale, dove avremmo dovuto straperdere, adesso in realtà siamo al 30%, si può eliminare, sì, per via giudiziaria. Cioè, ma chi è che lo vuole eliminare in particolare? Cioè, c'è un gruppo di magistrati coalizzati nella procura di Milano che studiano, certo, di notte, che fanno? La maggior parte dei magistrati fanno il loro lavoro, sì, con coscienza e con correttezza, sì, e invece altri non onorano, diciamo, quella sì, quel senso di verità e di giustizia per i quali indossano la toga. Cioè, è evidente che c'è un accanimento, sì. Ma il capo di questi qua, ci sarà un complotto, no? C'è o no un complotto? Cioè, si riuniscono di notte la Boccassini, il signor Greco, il signor De Pasquale, cioè quanti sono questi qua? Ma questo no, ma c'è un pregiudizio, loro non lo conoscono. Cioè, non lo conosco, se lo conoscessero? Se lo conoscessero lo amerebbero, come la maggior parte degli italiani. Ah, lei dice i magistrati di Milano, anche quelli lì, cioè se lo conoscessero sul serio, lo amerebbero. Ma sì, è assolutamente diverso da come viene descritto, c'è un odio, una forma di accanimento, di un assalto, cioè, queste sentenze, no? Quello che sta avvenendo, sì, questi giorni, attacco concentrico, questa sentenza surreale, la cosa di Napoli, di rinvio, sì, esatto, di rinvio a giudizio. Però sono due procure diverse, le segnalo, una a Napoli e l'altra... Si connotano, diciamo, per il tipo di obiettivo, che diciamo è sempre di natura politica. Poi insomma sappiamo anche che, a parte che i cittadini hanno punito, no, l'impegno politico che poi, sì, questi magistrati farsi pubblicità attraverso inchieste di natura politica. Cioè, lei dice la cosa di Ingroia, dice, no? Certo, di Pietro. Lei li vede più, io non li vedo più. Non li vede più in Parlamento, no? Beh, Ingroia, Marco Cialdini. Ma onorevole Savino. Dimmi, Parenzo. Onorevole Savino, mi perdoni. Ma dove sei? Scusa, Parenzo, dove sei? Andando al supermercato. No, ma per capire, cioè, c'è una trasmissione radiofonica, però fai come ti pare, cioè, se vuoi andare. Sto andando al supermercato. Ho capito, va bene, però insomma, c'è una trasmissione radiofonica, la portare avanti se ti fa piacere, se puoi. Sto andando al supermercato, sì, per raccontare pezzi di società. Ma non c'è dubbio, sì, sì, certo, avanti, forza, dimmi. Tra una cosa e l'altra, tra un acquisto e l'altro, magari puoi dire qualcosa di interessante, di originale. Per un quarto sto andando a fare la sera. Sì, sì, no, per carità, ma non c'è problema. Allora. E poi chiude le 8:30, tu conosci sugli orari dei. Sì, ma non hai capito che io me ne fotto di questi dettagli. Comunque, vai, vai. Ma Parenzo lo pagate voi? Sì, purtroppo lo paghiamo, sì, lo paghiamo anche. La signora Savino andrà anche lei a fare la spesa ogni tanto, immagino, sì, no? Certo, immagino, però quando ha un impegno a Savino, immagino quando deve lavorare la Camera, non è che a un certo punto vota, non è che la Camera vota da, no, vota da casa sua o dal supermercato, quando sta la Camera per votare, sta lì per votare. O manda la colf, per capirci. La certo, si organizza, non c'è dubbio. Per capirci, sì. Il signor Andreotti, che da poco ci ha lasciato per andare in un altro mondo, dal 57 ha subito processi, mai una volta ha osato dire che c'era un complotto. Vabbè. No, vabbè, niente, perché voglio dire, sì, può essere il Belzebù, ma è uno che ha accettato sempre il giudizio e soprattutto il processo. Va bene, hai detto la stronzata di oggi, su, avanti. Ma non è una cosa talmente evidente che ormai è saltato tutto con lui, sì, perché è saltato tutto, è possibile. Tutto. Hai detto, dici delle cose banali. Comunque, onorevole Savino, il ministro Ghenghe, lei ha detto che dovrebbe, dopo la sua proposta sullo Ius Soli, dovrebbe presentare un'altra sulla poligamia. A me mi fa specie che neanche voi abbiate capito il senso di quella dichiarazione, perché sono stata riempita di commenti su Twitter che non hanno compreso il senso. Beh, di quello che ho detto. Lei ha detto, dopo il disegno di legge sullo Ius Soli, il ministro Ghenghe intende presentarne anche uno sulla poligamia. Ma no, era una provocazione. Ma certo, ho capito. Ma certo che era una provocazione, però è chiaro che lei non si aspetta che il ministro Ghenghe proponga un disegno di legge sulla poligamia, lo immagino, però già il fatto che lei nomini la poligamia, perché ha 38 fratelli o sorelle e il padre, insomma, e quattro madri, ne ha una di madre in realtà, cioè il padre ha quattro mogli. Lei era contenta di vivere in questa sorta di comunità in cui aveva quattro madri e 38 sorelle, che è una cosa che le ha fatto bene, perché le dava l'ha creato un senso, insomma, senso di accrescimento, perché le dava la sensazione di vivere una comunità. Le fa orrore questa cosa? Introdurre lo Ius Soli, eliminare il reato di immigrazione clandestina. Allora, domandavo per caso. Vuole introdurre anche la poligamia? Beh, però guardi, è una cosa d'effetto. Qualche volta. Parenzo, penso poi in Italia se uno potesse avere quattro mogli. Non ce la fa, con la crisi che c'è, la vedo dura. No, David, la vedo complicata. Io non ci troverei nulla di strano. C'è qualcuno che voglio dire non ha quattro mogli, ma mi pare che abbia un'attività sessuale piuttosto plurima in passato, però non so di chi si, non voglio tu stai dicendo che Berlusconi, avendo avuto un sacco di donne, almeno così si dice, è una sorta di poligamo, è un poligamo. C'è qualcuno in questo paese che non ha formalizzato legalmente la presenza di più donne? Io vorrei sapere dal ragioniere Spinelli, ma non voglio farne nessun riferimento. Questo che c'entra, scusa, cosa c'entra il fatto di avere, come si dice, un sacco di donne col fatto di avere una famiglia con 38 fratelli o sorelle? Forse è meglio un paese in cui si regolamenta tutto questo e non viene lasciato al caso. Allora, no? Signora Savina, è meglio avere tante amanti oppure è meglio avere una famiglia legalizzata con 38 fratelli e 4 mogli? No, questo non lo so e non entro nella vita privata. No, ma in generale. No, ma in generale non è il modello di famiglia che è previsto dalla nostra Costituzione. Vabbè, non è che lo vuole introdurre però la signora Ghenghe. Ma lo so. Ha fatto una battuta, però un po' infelice, diciamo la verità, la poligamia. Cioè lei attribuisce alla signora Ghenghe il fatto di voler introdurre la poligamia, non è bellissima? Ma no, ma era una domanda retorica, cioè come era una domanda provocatoria. Molto provocatoria. Parenzo, ci sei o no? Sei sparito? Certo che ci sono. Sì, sì. Lei è a favore del matrimonio gay, signora Savino? Ah no, ma penso che non interessi neanche i gay, onestamente. Ah, lei dice, non interessa nemmeno, cioè non sono interessati all'oggetto al matrimonio, non si vogliono sposare. No, ma ci vuole una regolamentazione di queste unioni, dopodiché matrimonio la vedo un po' azzardato, e ancora di più l'ipotesi di poter adottare bambini. Beh, però, guardi, anche i bambini, perché no? In fin dei conti, perché dovrebbero crescere male in una coppia omosessuale? Crescono male anche in coppie eterosessuali, vabbè. Vogliono tante brave persone, c'è un po' che sia morto Andreotti. È morto? E finalmente. Era ora. Era ora. Era ora. Era ora. Era ora, tutti devono morire. Ci dispiace, però per la parte ha vissuto bene. Finalmente, ringraziando Dio. Meno uno, avanti il prossimo. Sono contento, ha fatto male a tanta gente in questo paese. Non provo nessun dispiacere. Giubilo, giubilo. Ricomincia. Avete sentito alcune voci raccolte per strada a Napoli sulla morte di Andreotti? E poi ci stupiamo, caro Parenzo, delle telefonate che arrivano qui alla Zanzara. Ma questo, esatto, è nulla, cioè questo è nulla. Hai sentito quello che diceva era ora? Ma poi una donna che diceva meno uno. Meno uno! Avanti il prossimo, tra l'altro. Avanti il prossimo. E ora a chi tocca? È roba da matti, eh. È roba da matti. Siamo qui 800 24 00 24 con Elvira Savino, onorevole pugliese del PDL, che ha detto che Berlusconi è una delle persone più perseguitate, come possiamo dire, onorevole Savino, in Europa, nel mondo, in Italia, nel globo terracqueo, ovunque. Non lo so, faccia lei. No, comunque, ma è sicuramente perseguitato. Sì, però insomma, trattato, ma lo vogliono morto, come ha detto lui, davvero qualcuno lo vuole morto tra i magistrati? Ah, politicamente senza dubbio, forse anche fisicamente. Anche fisicamente, lo vogliono morto, eh. Cioè lo vogliono proprio, poi, cioè in una cassa da morto. Neanche, guardi, sì, è talmente sfacciata e spudorata questa cosa, sì, forse l'hanno capito anche i bambini, a mio avviso. Lei dice, però, sì, tutti ormai. Sì. Però, voglio dire, il problema è che non si cerca neanche più di mascherarla con insomma un po' di no? È proprio spudorata. Cioè lo vogliono, secondo lei, proprio dentro una cassa da morto? Cioè se fosse morto fisicamente, ma loro anche esteticamente si cerca, che ne so, non depositare le motivazioni della sentenza dopo 3 minuti, visto che non si è mai fatto nella storia d'Italia, o non fare una sentenza identica a quella precedente, o accogliere un testimone. Vabbè, quelli... cioè fare delle cose che esteticamente ci dicano siamo imparziali, no, proprio zero. Ah, così, Così. Cioè, però, diciamoci la verità, secondo lei ci sono alcuni magistrati che se domani Berlusconi morisse sarebbero contenti? Ma io non so, mi auguro di no, ma insomma non credo... se lo pensate rivelerebbero insomma la potenza della però loro... Scusa, Savino, torniamo alla questione della poligamia. A me interessa molto, Parenzo, la questione della poligamia. Interessa, sì, a te? No, infatti io voglio capire questo prima della poligamia. Mi pare che lo sport nazionale dei membri, sì, alcuni membri della maggioranza di questo governo sia quello di sparare sul nuovo ministro per l'integrazione. No, veramente sono soprattutto i leghisti. Abbiamo espresso tutti solidarietà contro gli attacchi che ha ricevuto oggi e rispetto a quello che ha detto si è espresso anche il Presidente del Consiglio, per esempio rispetto a questa parte che ha mitigato anche lei il senso delle sue dichiarazioni, dicendo che non ha mai detto che intende applicare lo ius soli puro, in Italia. Ma e quindi ha fatto una sorta di retromarcia, ma lo stesso Premier Letta ha detto che non è nel programma. Infatti, cioè, la mia prima dichiarazione in merito a questa cosa è stata che, senza ombra di dubbio, di questo si può discutere sul diritto di cittadinanza, però non è una priorità, cioè non è per questo che il governo Letta Alfano, diciamo, è nato. No, vabbè, certo, quello sicuramente. Senta, a proposito invece mi tolgo una curiosità, perché ci sono un sacco di deputate del PDL che si mettono con deputati del Partito Democratico? Lei riesce a capire? Un sacco, due diciamo ufficialmente. Perché c'è questa voce? Deputate del PDL che si fidanzano, addirittura si sposano con deputati del PD. Come mai? Perché c'è questo nuovo clima? No, vabbè, questo già nel passato, però come mai? Cioè, insomma, è possibile che non ci avete una persona, un uomo bello lì a partire nel PDL, con qualcuno che... Perché... Ma che ne sa lei che non ci sono altre? No, ma voglio dire, due deputate sono messe perché anche... Perché è una cosa che fa trendy. È trendy, eh? Sì, ah, secondo trendy. Lei fa figo. Fa figo mettersi con quello. Arriva subito un pezzo sui giornali, ecco le larghe intese. Ah, lei dice che un po' ci marciano anche, un po' ci marciano anche per andare sui giornali. Beh, no, non l'ho detto, l'ha detto lei. È possibile, beh, lei l'ha detto così. No, dico che è talmente trendy che poi ovviamente c'è un parallelo tra le vicende del governo. E poi articoli sui giornali, eccetera, eccetera. personale. È così, la realtà è questa. Ma guardi che non è mica sbagliato dirlo, cioè, no, ma servizi su chi? Servizi sulle riviste patinate, fotografie. E quando lo trovavano lo spazio, se no? Ma non mai, per carità. Sì, uno è addirittura ministro, figuriamoci. Uno è ministro addirittura. Scusi, ma secondo lei, mi spieghi un po', perché brava, la signora... ministro è brava. Ministro brava, signora De Girolamo, Ministro è brava. Senta, ma perché la signora Boccassini ce l'ha così con Berlusconi? Lei è invidiosa un po', secondo lei? Ma perché, secondo me, quando uno inizia a tentare di raggiungere un obiettivo, pensa che possa essere facile, no? Sì. Per una ragione, per ragioni che possono essere di varia natura, no? Antipatia, invidia, roba. Invidia, di invidiosa, e secondo poi lei. Poi non ci riesce e ti viene l'accadimento. Ma perché è invidiosa, secondo lei, signora Boccassini? Invidiosa di che? Ma non lo so, ma l'invidia in senso lato, cioè... Io ripeto, secondo me c'è una interpretazione scorretta della persona umana. Ah, cioè se lo conosce, se la Boccassini conoscesse Berlusconi, non scoppierebbe l'amore, diciamo la verità, Ma ve l'ha detto, ci sono anche salutati calorosamente. Però l'amore quando non mi ha dato la mano, era tutta emozionata. Beh, emozionata. Se lei dice che poi uno di fronte a Berlusconi si scioglie, Sì. Si scioglie. Però non è il tipo di Berlusconi, la signora Boccassini. Non mi sembra, così a prima vista. Mai mettere limiti alla provvidenza. No, le dice addirittura secondo... è vero però, è giusto ricordare che secondo quello che sappiamo, durante le feste di Arcore qualcuno si travestiva da Boccassini. Ah, è vero questa cosa qua. Ma non fate il bacchettone, un po' di goliardia ci sta. Sì. Lei ha mai partecipato a queste serate, no? No, mai. Adesso mi si è rotta la caldaia. Ma tu lo sai, ma non me ne frego io che ti sia rotta la caldaia. Ma mica è Casa Parenzo questa trasmissione, è diventando Casa Parenzo. C'è ogni volta al supermercato la caldaia. Quando le si rompe la caldaia, lei cosa fa? Chiama Bondi? Cosa fa quando si rompe la caldaia? No, chiama un zitto, Parenzo! Che tu la sai lunga, Parenzo! Lo sappiamo. Quella è una delle sue parti, diciamo, Savino, che si chiama Savino da Bari, tra l'altro. È un ascoltatore che chiama sempre. Ma tu lo sai che la signora Savino per un certo periodo a Roma, così mi risulta, abitava a casa della nostra amica? Aspetta che devo chiamare Siu, aspetta un attimo. Ma che devi chiamare? Non ho capito. Siu, il mio cameriere indiano, aspetta. Chiamalo, dai, chiamalo. Che qua... Siu! Ma non fare così, scusa, non fare così. Ma così lo chiami in questo modo. Allora, io volevo dire che in questo paese vanno rispettati i diritti dei lavoratori. Siu! Pronto? Ma non si sente allora, niente, tra l'altro, quando lo chiami così, è una cosa pazzesca, guarda. Cioè, allora che vuoi? Dimmi. No, volevo dire. Vabbè, hai fatto o no? Stai parlando con me? Sì, vabbè. Ma tu devi sapere, per un certo periodo. Ma è successo o no? No, per un certo periodo la signora Savino abitava in casa con la nostra amica Began, per un periodo, credo, Cioè hanno abitato insieme. Sai che ma noi siamo... no, ma parliamo di politica, ma tu... siamo a basta, ma lei lo sa che no, ma non stiamo parlando di ma nulla. Non è così. No, non è così. Ma guardi che era un'osservazione così carina, ma no, gentile. Ma non sarebbe niente di strano. Ma no, è nostra amica, è la mia amica. Ma non è così, nel senso che io sono arrivata in un posto e ho preso la casa e lei abitava nel mio pianerottolo. Cioè è tutto diverso. Ma allora non è vero che lei ha presentato Tarantino a Berlusconi, no? Ma questa cosa non è scritta da nessuna parte. No, ma è una domanda, non è vero, è per capire, così, ma pur ma parlare. Ma non l'ha mai detto, te lo sta inventando lei. Ah, me lo sto inventando io? Nessuno l'ha mai detto, nessuno degli interessati. Nessuno degli interessati, vabbè, no. Ma è... lo sai che è laureato in economia e commercio, Parenzo? Cioè, Concentri le cellule. Sì, ma fai con comodo, Parenzo, non c'è problema, fai con comodo. Ma Parenzo lo pagate voi per purtroppo, fare purtroppo lo paghiamo. Purtroppo voglio vedere cosa se succedesse, se dovesse cadere a casa sì tua, ma ho capito, ma non mi interessa. No, cioè. Ma adesso scherzi a parte, vorrei vedere se, scusami, se dovesse capitare a casa tua, che tu torni a casa e trovi il bagno allagato perché il boiler si è rotto. Adesso se quello lì non viene qui, io ti assicuro che lo licenzio per giusta causa. Quanto non sono capisci un cazzo. Ecco, quanto sono comunisti i magistrati che se la prendono, che accusano Berlusconi, secondo lei, Savino? In che senso? Sono molto comunisti? Ah, quanto sono comunisti? Sì. Adesso trascendono anche da questo genere di categorie. Non sono comunisti allora. È una visione distorta della realtà. Una visione distorta della realtà. Cioè interpretano tutto in chiave anti-Berlusconi, qualsiasi cosa. Visione distorta. L'anti-berlusconismo è molto più forte del comunismo. Ah, molto più forte del comunismo. Il comunismo non c'entra niente. Basta parlare di magistrati, comunisti, allora. Un po' quasi ancestrale, non so, a mio avviso. Sì, una cosa che hanno dentro proprio. Sì, cioè, appena vedono Berlusconi non ce la fanno. Cioè, ma cos'è che li muove? L'invidia? Ma no, io penso che c'è una volontà. Cioè, godono proprio nel vedere Berlusconi magari in galera. Questo, no, è un po', sicuramente attiene anche al potere, un po' alla visibilità, anche un po' al potere. Cioè, alla impossibilità di raggiungerlo fino a quando quest'uomo è impegnato politicamente. Cioè, è una barriera, un blocco alle ambizioni. Sì, ma lei, per lei Berlusconi cos'è? Un po' come un padre, un mito? Ce l'ha? Un nonno, forse. No, non esagero. Cioè, chi è un personaggio? Deve tutto a Berlusconi? Cioè, c'è la foto di Berlusconi? No, per me, è uno statista. Cioè, assolutamente. Il più grande statista dell'Italia del dopoguerra, secondo lei? In un certo senso sì, sicuramente ha modernizzato questo paese. Sicuramente, come dire, qua si può fare tutta l'ironia che si vuole, no? Sì, ma tutta. Io torno a ripetere che quest'uomo non è che è arrivato, diciamo, a fare il Presidente del Consiglio per diritto successorio, per investitura divina. È stato votato, è stato eletto, ha preso più voti di chiunque altro nella storia di questo paese. C'è bisogno che qualcuno se ne faccia una ragione. Sì. Anche per rispetto dei cittadini elettori, non è che qui ci sono quelli di serie A, quelli di serie B, poi qua c'è l'idea di una certa parte della sinistra del nostro paese che debba governare per una forma di diritto di governare in ragione della presunta impresentabilità, incapacità degli altri. Cioè, ma siete alleati? Ma governate quando sarete votati dalla maggior parte dei cittadini. Siete alleati, vi segnalo adesso, Ma sì, ma questo perché sempre, diciamo, il solco è stato, come mi pare del tutto evidente, segnato dal senso di responsabilità istituzionale di Silvio Berlusconi, che l'ha detto dal primo istante che questa era la strada percorribile e che era e che andava fatta in nome dell'interesse del paese, perché guardi, se andassimo a votare adesso, lei lo sa bene che noi vinceremmo a mani basse. Lei dice? Ma questo è evidente. Vabbè, Parenzo, dimmi che c'è. Questo non si capisce dove l'ha trovato questo dato che si dà dei sondaggi. Vabbè, oggi non sei in forma. Oggi non sei in forma. Chiudiamo baracca, Burattino, Nero Savino. Grazie, buona serata. Federico ci chiama da Pavia. Buonasera, Federico. Buonasera, Cruciani. Buonasera, Parenzo. Vada. Premetto che non chiamo per sfogarvi. Sfogarmi come hanno fatto gli ascoltatori precedenti, anche se vi amo e vi odio allo stesso tempo. Però io volevo capire una cosa: il sottosegretario agli esteri, no, non è sottosegretario, è segretario della commissione esteri, che è un po' diverso. Il sottosegretario è uno che governa, quell'altro fa il segretario. Ma allora? Non parla l'italiano. Beh, parla un italiano piuttosto approssimativo, ecco. Insomma, un italiano suo. Io prima ero distratto, ero in macchina, ascoltavo, però non ha azzeccato un plurale. Plurale, singolare, verbi, vabbè, ma insomma è il suo modo di parlare. Vogliamo fare riascoltare per esempio il pezzo in cui il signor Razzi si confonde, non riconosce, cioè non sa il nome del ministro degli esteri israeliano, la signora Libni, e si confonde con in realtà il nuovo ministro dell'integrazione di Chieng, che poi è un nome molto diverso, però per lui ha sentito un nome straniero, l'ha subito associato alla Chieng. Sentiamo. E sa chi è il ministro Livni, lei? Sì, l'ho conosciuto in Senato. Il ministro Zipi Livni? Sì, l'ho conosciuto. Sì, è il ministro di che cos'è? Per quanto riguarda gli immigrati. No, il ministro Zipi Livni è un ministro del governo israeliano che è in visita in Italia in queste ore. Ah, io, siccome c'è un nome strano. Ma strano, è chiaro. Quello è il ministro, io non è che mi ricordo tutti. Ho capito, ma un nome strano l'ha associato subito al ministro Chieng. È una roba da matti, dai. No, su. Poi dice quello che si occupa degli immigrati, di quelle cose là, capito? Allora, Federico? Niente, tutto qua, volevo farmi due risate proprio. Se riuscite poi a farmelo risentire per i plurali e i singolari, io vado a casa contento. Subito, gliene facciamo sentire uno, guardi. Pensione, non so, non abbiamo la zappa in mano, che ne so, quello che vuole, uguale. Marò già in Italia. Una vostra scelta. Sì, sì. Ci sono alcune mansioni. Mansione? Mansioni? Sì. Sì, vabbè, che, comunque che guarda, c'è? Dai, che sì. Ti frega. Guardare i verbali, guardare i verbali. Le votazioni, sì. Scrutinare quando ci sono degli argomenti da votare, sì. Ci sono parecchie cosettine. Sì. Beh, non ci si ammazza di lavoro, eh. Non è che ci abbiamo la zappa in mano. Segreteria, buonasera. Sì, buonasera, segreteria Grillo, cercavo l'onorevole Venturino. Chi parla, scusi, segreteria? Segreteria Grillo, cercavo l'onorevole Venturino. Grillo, parliamo di Beppe Grillo, sì, giusto? Sì, grazie. Un attimo solo. Però mi deve dare un numero di telefono. Sì, come no. Me lo dia. 348. 348. 8384. 8384. 275. 275. Un attimo solo. Sento ancora il numero che abbiamo occupato, un attimo. Lei è ancora occupato, appena si libera la richiamo io. Di chi devo chiedere? Filippo, grazie, Filippo. Filippo. Filippo. Okay. Va bene. Casomai, casomai riprovo io tra un minuto, perché è una cosa urgente. Grazie. Vabbè, grazie. Noi qua siamo. Grazie, arrivederci. Federico, allora? Non c'è più, Laura da Milano. Laura da Milano, sono io. Vada. Allora, dunque, uno. Mi sembra che ultimamente chiamino meno donne del solito, che sono sempre uomini. Ma è pieno di donne, mi hanno massacrato l'altro giorno, che dici? In più, gli uomini che chiamano sono anche o sgarrupati o non si capisce cosa dicono, per cui forse è cambiato il recupero delle telefonate. Comunque, posso esprimere una mia teoria fantascientifica sull'hackeraggio delle mail dei grillini e la candidatura di Rodotà, che è il garante della privacy? No, ma che noia, però, che noia. No, lo so che è noia, però l'hackeraggio delle mail, Rodotà, roba no, morta, vecchia. Ma non per quello, perché l'idea era quella, che hanno hackerato le mail perché non c'è nessuna privacy in Italia. Allora? Cioè, e che comunque Rodotà è uno che sono 30 anni che è sulla sua sedia, è incollato anche lui tanto quanto gli altri. Ma questo l'ho già detto io all'inizio. Punto. Pronto, buonasera, sono sempre Filippo. Sì, Filippo? Sì. Guardi, io l'ho rintracciato, mi ha detto che in questo momento non può parlare perché sta rilasciando un'intervista. D'accordo. Io il suo numero ce l'ho, quando lui ci chiama la mettiamo in contatto. Ok, grazie. Prego, buonasera. Grazie, arrivederci. Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, why don't you go home? Giorgio da Roma, buonasera. Buonasera Cruciani. Vada. Posso farle una piccola tiratina d'orecchie? Ma lei può fare quello che vuole. Ma piccola, eh? No, anche grande. Però risponda a questa domanda. Che valore aggiunto portano coloro che telefonano alla sua trasmissione? No, lei sta chiamando, per cui parli. No, porti il suo valore aggiunto. Porti il suo valore aggiunto. Le sto facendo una domanda, no? Sì. Secondo lei, qual è il valore aggiunto delle persone che chiamano la sua Ma senta, alla gente adesso di questi argomenti non gliene frega niente. Parli di quello che pensa, di quello che fa. Interessa a me. Non lo so, non stiamo facendo un corso su come si fa una trasmissione radiofonica. Siamo in una trasmissione radiofonica, per cui parli, si esprima. Ma io non so sulle spine, dica quello che pensa. Quello che penso sì. Considerato come tratta lei alcune persone, sì. Mi domandavo perché ancora tenete le linee aperte per gli ascoltatori. Per quelli come lei che chiamano e esprimono tranquillamente la propria opinione. Poi da me lei si aspetta che cosa? Che io dico bene, sì, ok, ho capito, no, sì, bravo questo video. No, volevo soltanto capire, visto sì. Che lei si prende gioco sempre di qualcuno che è disperato, no? Che ma chi l'ha detto? Chi lo sostiene? Si vada a risentire le sue. Ma cosa significa mi prendo persone. Gioco di quelli che sono disperati? Ma di che dice? Con alcune persone, l'ambulanza e tanto altro. Credo che per prendersi gioco, mio nonno diceva sempre: non aver mai paura del potente, ma abbi paura del disperato. Sicuramente lei lo fa perché è protetto dalla lontananza. Io non credo che lei avrebbe le palle per affrontare le persone disperate in questo modo, sì. Come lei lo fa in trasmissione. Sì. Sicuramente. Anche lei è una di quelle persone che usa il suo piccolo potere denigrando chi non la pensa come lei. Vabbè. O chi sta peggio di lei. Non le fa onore perché non la reputo un deficiente, sì. La reputo una persona molto intelligente, reputo una trasmissione sì. La reputo una trasmissione efficace laddove giustamente fate. Beh, posso terminare il mio concetto? No? Sì, capito. Ci sta attaccando il suo pippone sul modo in cui. Bene, il mio pensiero ancora non legge, penso, no? Sì, no, vada. La reputavo una trasmissione benissimo. Molto interessante nel momento in cui sì. Intervistate persone che governano questa nazione sì. e risaltate risaltare. Dell'incongruenza delle nuove dichiarazioni. Vabbè Giorgio, no, non la sento più, grazie. Ives, Ivo, non so come si chiama, da Parigi, buonasera. Ives, buonasera. Dica. Da Parigi? Allora, io chiamo... Sì. Scusi, chiamo per battagliare con Parenzo. Che vuole fare? È il mio scopo principale. Sì. Allora, come sempre lui è un giornalista a coerenza alternata. Cioè? Perché se manda l'ambulanza per la gente che la critica perché lei è amico, dice di essere simpatizzante di Dell'Utri, perché lui si comporta nello stesso modo con quel giornalista che avete sentito ieri, no l'altro giorno, quello che aveva fatto la foto, il fotomontaggio della signora, sì. Come si chiama? Boldrini, sì. La signora Boldrini, esattamente. Vabbè, e lui allora... manda l'ambulanza alla gente perché dice io sono amico di Dell'Utri e tutti le dicono ah lei le piacciono i mafiosi, lei almeno è coerente, ma lui è completamente incoerente perché con quell'altro, con quel giornalista, siccome è l'amico di ma non dica Fiore, stupidaggini, se lei, no, lei non purtroppo... dica stupidaggini, lei ha detto no, lei è amico di Fiore, ha detto queste parole, ho detto con ironia che da un punto dirò di chi sei. Ha da un punto di vista radiofonico Dell'Utri è e anche come persona è indubbiamente simpatico, divertente, è funzionale, dice delle cose come questa battuta che mandiamo in continuazione. Come fa a non capire? Perché non a me dispiace perché lei non capisce, questo che mi dispiace. Capire cosa non capisco. Lei con una persona che dice di essere amica di Fiore, no? Dice io sono amica di Fiore, non ci voglio anche parlare. Ma perché Fiore, ma posso culturalmente... Che lei essendo di religione ebraica ha dei problemi con Fiore, ma non c'entra quello, posso disprezzare culturalmente le teorie politiche di Fiore? Ho questo diritto ancora o arriva il quisque del popolo da Parigi che mi dice che sono incoerente? Posso disprezzare politicamente il pensiero di Fiore? È consentito? Certo sì, che è consentito. Risposta. Domenico da Como, sì. Buonasera, Domenico da Como. Domenico? Ah, Mauro da Roma, Mauro. Sì, pronto? Forza, vada. Oh, dottor Cruciani, subumano come sono definito. Volevo fare delle proposte sì. Di governo finanziarie intorno alla vostra trasmissione, se voi diventate portavoce presso il governo di queste proposte. Tre semplicissime. Legalizzare le battone di modo che si stanno alle evasioni fiscali, si stanno al bilancio. Sì, siamo d'accordo. Legalizzare la marijuana così il governo vende la droga meno tossica di tutte dopo che fa i soldi sì. Con il tabacco e con i liquori, e poi gli extracomunitari vanno a scontare la pena all'estero del loro stato, così abbiamo meno gente in carcere e meno delinquenza. Perché non vado accordate e diventate portavoce di queste proposte? Mauro, non c'è bisogno di diventare portavoce di nulla, io sono d'accordo sia con la legalizzazione della manuale che sia con la legalizzazione cosa, delle troie, come ha detto lei. Più di fate qualche cosa, noi non ci si fila nessuno. Vabbè, ho capito, Mauro, ma sono proposte, lo diciamo, come dire, costantemente. Da anni si va avanti così. Da anni lo diciamo, legalizzare le battone, come lei dice, legalizzare la marijuana. Cosa vuole che le dica? Sono d'accordissimo. Non mi molesta il moschito. Siamo qui con Domenico da Como. Buonasera, Domenico. Eccoci qui. Buonasera, Cruciani e Parenzo. Dunque, ascolti, io sono un assiduissimo ascoltatore. Sì. Dalla mattina alla sera, certo, sì, quest'ora ascolto la vostra radio. Allora? È veramente una bellissima radio, è un palinsesto veramente interessante. Adesso so già dove vuole andare a parare. Benissimo, e siccome lo sa, adesso lo capirà. Perché sì, ma lo so benissimo, ma me ne fotto totalmente. Per ma cui... lei se ne fotte, lei se ne frega, lei si annoia, quando qualcuno cerca di essere un valido interlocutore nei suoi confronti... Valido, bisogna vedere se lei è valido o no. No, non sto parlando di me, sto parlando di tutti gli ascoltatori. Vabbè, allora... Sto parlando di tutti gli ascoltatori che lei puntualmente tutte le sere li tratta come stracci e li umilia. Vabbè. E io non so a che cosa giova questa cosa. Se lei cosa, si sente però umiliato, sono affari suoi. Io per fortuna non ho telefonato soltanto una volta, la telefonata è durata 2 minuti proprio per il suo comportamento. Vabbè, Domenico, allora dove vuole arrivare? Volevo dirle soltanto che lei è forte con i deboli e deboli con i forti. Bella solita stronzata. Questa è la sua caratteristica, risponde probabilmente a dei padroni, ma che non so a questo punto quali. Oscuri, molto oscuri. No, io a questo punto non so quali, perché io sinceramente non so se il direttore di questa rete... Rete. Sì, di questa trasmissione telefonica, certo. Rete 1, Rete 2, sì. Di questa stazione radiofonica. Continui pure a fare della facile ironia. Vabbè, ma lei non sa nemmeno di che sta parlando, questo è il punto. Lei non sa di che parla. Non so di che cosa parlo. Lei è l'espressione peggiore di questa società. Come non so di che cosa parlo? Società lei, interessante, questa lei cosa è della società servile, interessante. Lei è quel servile di Parenzo. Sì. Siamo servili tutti e due. Non so però chi serviate, non credo il di... Chi serviamo, Parenzo? Chi serviamo? Beh, serviamo la confessione. Dipende, siamo a, come dire, alla carte, come si dice, no? Dipende da chi ci paga, caro Domenico. La Confindustria potrebbe essere un domani il Corriere della Sera, potrebbe essere anche l'Unità un domani, ma potrebbe essere il Giornale. Io ho chiamato dirvi che appunto fanno male a pagarvi, perché no, voi non valete una cicca né come conduttore né come opinionisti. Benissimo. Altro che espressione libera. E quale libera? Voi servite i vostri padroni, ma che ripeto, non credo che sia cosa? Mi faccia parlare. Faccia parlare anche quelli che hanno più difficoltà di me. Ma è un minuto e mezzo che lei parla, 2 minuti che parla, non ha detto niente. Ma come un minuto e mezzo? Faccia parlare, la trasmissione diventa interessante solo a questo punto, altrimenti alle 6:30, alle 18:30 sì, conviene spegnere questa radio. E spenga lei, che gli frega, spenga. Perché qui la passione non si sente, capisce? Sì, sì. Qui non si sente, qui c'è il buio. Sì, il buio. Come sì? Il sì, buio. Non ha nient'altro a dire, non ha qualcosa... Ma che vuole che dica? Ma lei sta delirando. Un briciolo ma lei, interessante. Ma di fronte al delirio, uno che deve fare? Lei sta delirando. Ma quale delirio? Le chiami l'ambulanza, dai. Non sprechiamo un'ambulanza. È un caso disperato, ormai lei non, cioè, è disperato, non c'è nemmeno bisogno dell'ambulanza. Che vengano a fare quell'ambulanza? Vedono, arrivano, dicono, vabbè, questo qua ormai che può fare? Cioè, ormai non lo portiamo nemmeno in ospedale. Cioè, è lì, purtroppo, non può recuperare. Vado a stare svegli. Maurizio, come stai? Ma stavate giocando o era sul serio? Ma è sul serio. Porca miseria. Che vuoi fare? Ci attaccano dappertutto. Perché l'avete fatto arrabbiare? Ma sai, quanto tempo che non ci sentiamo, Maurizio, come stai? Maurizio Zamparini, presidente del Parlamento. Mi hai chiamato perché sono andato in Serie B, eh? Sei andato ormai, ormai. È fatta. Lo so, ho capito, ormai che giocate a fare pure questa partita a Firenze, a mezzogiorno e mezza, domenica, Un'ora e mezza giochiamo. Sì, è una farsa ormai, no? Noi la giochiamo fino alla fine. Il campionato di calcio è bello anche quando si perde, non solo quando si vince. No, hai ragione, perché quello è una grande cultura sportiva, dovessi trasmettere, Maurizio, ai tuoi tifosi. Cioè, cari tifosi palermitani, facciamo un appello, perché veramente in questi casi c'è bisogno di una cosa di questo tipo. Te lo suggerisco anche come a livello di immagine. Si può andare in Serie B e non dico esultare, Non dico esultare, giusto Maurizio? Non dico esultare. No, no, no, esultare, ma accettare. Accettare. Ma loro, ma loro l'hanno accettata, sanno che io li riporterò subito in Serie A. Capito Parenzo? Saluta il presidente. Ciao Parenzo, ciao caro. Mi inchino, caro Zamparini, così avrai ti dedicherai meno alla politica, che non è proprio il tuo forte, più al calcio, bravo. No, ma io non ho fatto mai politica, ho fatto il movimento per la gente sul quale ci sto lavorando ancora. Per la gente, perché no, questa Italia deve cambiare, prima o poi riusciremo a cambiare qualcosa. Ma non sei manco d'accordo col governo Letta, dici? Ma no, ma questa è la continuazione di tutta la commedia di prima, cioè l'Italia deve cambiare completamente atteggiamento di fronte, sì, a un'economia nuova. Questa qui non è nient'altro, è la continuazione, ma guarda gli uomini, no? Di Monti, c'è sempre, dici, c'è sempre Berlusconi, ci sono sempre la sinistra, sempre la destra. Per cui non è cambiato nulla, ma io non sono un politico, io sto pensando agli italiani che rimangono senza lavoro, sì, tantissimi, e a un certo momento l'Italia è fallita e nessuno mette sul tavolo il problema vero, che, sì, è quello di far ripartire l'economia, che è quello di non restituire per adesso neanche un euro. Aspettiamo, magari questo governo qualcosa riesce a fare, che ne sai? Ma no, non sono all'altezza. Non sono all'altezza. No, non sono all'altezza. Comunque, Maurizio, l'unico all'altezza è Napolitano, sì, ma c'ha 88 anni, 87 anni. Figuriamoci, dici te, no? Se l'unica all'altezza è Napolitano. Comunque, caro Zamparini, tu mi avevi detto, chiamami a 5 giorni dalla fine del campionato, il Palermo sarà salvo. Ci siamo sbagliati. Quante cazzate hai fatto quest'anno? Dimmelo. Tante. Ma tante. Sai, quando le cose vanno male, quando fai una cosa che va male, vuol dire che hai fatto un errore sicuramente. Ma quante ne hai fatte? Poi, tra le altre cose, il gioco del calcio. Il gioco del calcio è un gioco che ha attaccato anche all'annate sì, all'annate no. Io ho visto dei canonieri che dall'annate la prendevano col culo, facevano gol, e dell'annate invece che a porta vuota la calciavano fuori. Questa per noi è stata un'annata disgraziata, questa 2013, dove al Palermo, che è una squadra da 50 punti, 52 punti, invece è andato tutto storto. 50 punti, dai, addirittura. No, è una buona squadra, l'ha dimostrato Sannino nelle ultime partite, per cui in un certo momento non è che... per cui quando è tornato Sannino la squadra ha cominciato a... Ma quante cazzate hai fatto? Dimmelo, Maurizio, dai, dimmi. Ho fatto un'unica cazzata, che è quella di mandare via Sannino dopo tre domeniche, dopo c'è stata un'involuzione. Oggi un giornalista mi ha detto, ma scusi, Presidente, sì, come giudica, quanta colpa ha? E io mi sono incazzato, ho detto, ma quando si fa un gioco e in 20 squadre, 3 retrocedono, è chiaro che quelli che retrocedono hanno sicuramente delle colpe, ma poi si risale, si lavora, la vita è fatta di alti e bassi, questo è un basso del calcio. Io ho fatto 10 anni a Palermo, stavolta scendiamo in Serie B, l'anno prossimo torneremo in Serie A, sto lavorando per quello, sto facendo la squadra per l'anno prossimo e buonanotte. Cioè già stai lavorando Il problema, magari l'Italia avesse anche lei che è in Serie C o in Serie D, La voglia di ricominciare da capo e di rifare la squadra. Noi siamo come l'Italia. L'Italia è sempre la stessa squadra, per cui retrocede continuamente. Cioè il Palermo è meglio dell'Italia, perché almeno noi ci mettiamo al lavoro per tornare in Serie A. Qui invece stiamo in mezzo alla merda, e in mezzo alla merda restiamo, questa è la sostanza. No, ripartiremo anche noi. No, dico il l'Italia. L'Italia, sto dicendo l'Italia. L'Italia ripartirà anche lei, perché la gente dell'Italia si deve svegliare, insomma, a un certo momento deve svegliarsi e deve dire: noi vogliamo ridiventare protagonisti del nostro futuro. Ma senti, ma sto Grillo non t'ha un po' deluso, sto Grillo? Molto, ma deluso molto, perché io speravo veramente in lui in un segnale, sì, di cambiamento. Non è che lui possa risolvere i problemi. Però non si è messo d'accordo con nessuno, cioè si è isolato. Perché ti ha deluso? Secondo me si è spaventato. Perché ti ha deluso Grillo? Perché non si è messo al tavolo, io ero in contatto con lui, non si è messo al tavolo a pensare a quello che bisogna fare per questo paese. Perché non basta solo protestare dicendo quello che non va, bisogna proporre quello che va. Ho capito, ma gli hai detto qualcosa tu? Hai cercato di dirgli qualcosa? Non sono più riuscito a trovarlo, non mi ha più risposto. Non ti ha più risposto, beh. Ma io volevo capire, Zampa, ma quanto ti è costato sto giochetto del Palermo? Quanto ci hai perso quest'anno? Quanto si perde ad andare in Serie B? Quanti quattrini si perdono? No, quest'anno ci danno 15 milioni di risarcimento per le squadre che retrocedono. Alle volte ripartire dalla Serie B, e questo lo dimostra la Juventus, sì, vuol dire risanare la società. Io penso che sia una partenza che ci metterà a posto anche. Cioè quasi conviene andare in Serie B qualche volta. No, non è che convenga, ma però si accetta e si riparte da zero. Naturalmente si rivede un po' tutto il budget, si rivedono le cose. Non è una tragedia. Però non è una tragedia, tu dici che in qualche caso perché in Serie A i costi sono alti, comunque bisogna, no, le aspettative, eccetera eccetera, qualche volta retrocedere può servire a, no, a risanare, a ripartire. Può servire a ripartire, ma non è una cosa sbagliata, eh. Senti, ma quanto tu hai parlato di torti arbitrali, la Juventus, le cose, ma in realtà non è che siete retrocessi per questo, eh. No. Non che noi siamo retrocessi, gli arbitri, questo, gli arbitri non c'entrano, dai. Gli arbitri almeno 4-5 punti ce l'hanno tolti, però quello che mi sono, vedi, quello di prima ce l'aveva con voi, perché voi fate una critica, una satira giusta, sì. E naturalmente la satira è il pepe della società, e serve, no? Qualcuno non vuole sentire certe cose. Io la satira la faccio sul calcio, perché dico quello che non funziona, quello che non va, sì, sì. E dico la verità, e l'ambiente ce l'ha con me. Ma quale ambiente? L'ambiente del calcio. Tu devi pensare che noi e Chievo abbiamo fatto ricorso all'antitrust, perché abbiamo detto che c'è un sistema dominante che ha fatto sì che le ripartizioni vengano fatte non con equità, ma in base a un sistema dominante. Sì. Beh, l'antitrust ci ha dato ragione, solo che invece di prendere la decisione ha detto: vabbè, voi avete ragione, ma ci vuole che il sistema politico vi risolva la situazione. Mm. Allora adesso sai cosa fanno le società? Dicono: ah, avete tradito la clausola compromissoria. Sì. Non è che dicono: abbiamo sbagliato l'antitrust, adesso che è sbagliato. No, dicono: avete tradito la clausola compromissoria, adesso vi sanzioniamo e pagate, perché non si può invocare la giustizia. Però scusami Maurizio, ti pare normale che in altre, che ne so, il Manchester United ha avuto un solo allenatore di tutti i 26 anni, tu hai fatto una strage assoluta? È un'altra cultura del calcio, l'Inghilterra sicuramente io li ammiro, non solo perché ha avuto 20 anni lo stesso allenatore, ma il loro sistema arbitrale, la loro cultura dello sport. Nelle ultime partite del campionato inglese non c'è neanche un intrallazzo, nelle ultime partite del nostro campionato coprirsi gli occhi e non vederle. Addirittura? È pieno di intrallazzi. Non so, voi per esempio? Per esempio? No, non faccio esempi, dai. No, dimmi esempi. Quali sono gli intrallazzi. Parla con i giornalisti del calcio e te lo dicono. C'è stata una protesta domenica, no, oggi c'è stata la protesta dei tifosi del Torino e del Genoa. Sì, per quello che è successo domenica, dici? Mi ha detto a un certo momento non giocavano più. Ci vergogniamo che divengono due squadre che non giocano a calcio. Vabbè, però sai, uno si mette d'accordo 0-0 sul campo. Ti sembra un valore sportivo? Vabbè, comunque già hai fatto fuori Miccoli, Dici che costa troppo. Costa troppo in Serie B. Ho detto che Miccoli, quando io riproporrò il nuovo contratto, no, che lui è senza contratto, per cui io riproporrò una cifra per un nuovo contratto, dipende da lui accettare o meno. Vabbè, quanto gli proponi? Al massimo in Serie B quanto può costare uno? Ma non lo so. Che so, 300.000? Faremo il budget, in base al budget, no. Fai un tetto di stipendio. Miccoli è un giocatore importante, figurati se lo dico a te adesso. No, ma il tetto di stipendi in assoluto, quale può essere per la Serie B, il tetto di stipendi? Ma dipende dal traguardo che ci poniamo, dal budget che avremo, dipende dalle cessioni degli acquisti che facciamo, un bilancio si fa su un budget generale, per cui nel budget generale, in base a quello che abbiamo a disposizione, ci saranno dei tetti sicuramente, che non sono tutti uguali, c'è un giocatore che può guadagnare più di un altro. Parenzo, vogliamo far fare una promessa come al solito da Zamprini qui dalla Zanzara? La promessa è questa: cari tifosi del Palermo, ormai siamo in Serie B, ma l'anno prossimo torneremo sicuramente là. Non la faccio, perché ha portato male quello che ho detto, 5 domenica dalla fine saremo in Serie A, per cui non te la faccio apposta, perché porta male farla da voi. Porta male, dici? Scusa, ma mica portato male, ma hai chiamato perché io ti ho detto a 5 domenica dalla fine, adesso siamo 3 domenica dalla fine, saremo salvi. E infatti a 5 domenica dalla fine eravamo salvi, perché eravamo quart'ultimi. Lo so, però salvi non eravate salvi. Ciao Maurizio. Eravamo salvi sulla carta. Ciao ragazzi, ciao. Ma cosa dico? Mi rompo i coglioni. Ho capito, però non è che se si rompe i coglioni ogni volta ci deve comunicare da Santo Domingo che si fa due palle così ad attraversare la spiaggia, eccetera. Vabbè, Roberto da Agrigento, c'è Roberto? Ma che cazzo se ne fotte di. Che cazzo se ne fotte di dell'utile dei coglioni? A parte il fatto che io ancora ho un po' speso con te, Giuseppe, e con il cagnolino Barboncino. Sì. Detto Parenzo, sì. Eccolo innanzitutto, perché io dico pagate Parenzo per questa trasmissione voi? Sì, alla pagate pure, cioè, con quella voce che tiene, Allora, innanzitutto devi mandare a fare in culo diretto, perché poi tu mi mandi a fare in culo e tanto io. Ma perché lo devi mandare a fare in culo? Qual è il problema della voce, scusi, bravo uomo? E che cazzo di voce tieni? Allora, io so che Cruciani c'ha la voce, ma tu che cazzo di voce tieni? Scusi, bravo uomo, scusi. Una voce da barboncino. Scusi. Le lunghe che ti porti sul ginocchio, ma che cazzo ti veste pure? Scusi, bravo uomo, vuole che la nervi a fare il culo subito o tra due minuti? No, io ti ho mandato a fare in culo prima, perché sapevo che poi mi mandavi tu. Ecco, ma se vuole, dimmi, se vuole, il tuo tarto, dimmi. Ma ti pagano. Sì, certo. Con questa crisi, pagare uno come te. Sì, sì. Cazzate con quella voce di merda. Sì, sì, proprio per, sì, esatto. Proprio per dare fastidio a gente come te. Ah, per me, sì, a me mi rode il cazzo proprio. Allora guarda, mi mandi a letto felice stasera. Che vuoi? Niente dici tu, parli te. Ma che devo dire? Ma che devo dire? Perché hai chiamato dicendo voglio mandare a fare in culo Parenzo? Ma ti pare una cosa normale a te? Ti pare una cosa normale? Ma io ando a fare in culo. Ma perché? Perché? Perché dici soltanto minchiate? Ma sono affari nostri. Ma che vuoi? Affari vostri, no, ma che vuoi, Roberto? Io non ho capito, che vuoi? Alla fine che vuoi? E non è scappato dal reparto improvvisamente? Ci sei scappato dal reparto ospedale? Secondo te è una trasmissione dove si parla di delle cose, si discute? No, ormai è diventato ciao Beppe, sembra ciao Beppe. È scappato. A te devono sostituirsi, c'è Alessandro Milan che sì, sicuramente ti sostituirà. Milan, com'è che lo dici? Com'è che lo Alessandro dici? Milan, sì. Sì, sì. A me voi mi state sul cazzo, non posso farci niente. Vabbè, pazienza. Infatti ha chiamato, siamo felici di questo. Allora? E allora? Detto... L'ho pagato a Parenzo. Sì, lo paghiamo. Sì. Parenzo. Sì, lo paghiamo. Sì. Perché? E perché così? Che, e perché sì, amore mio? E perché così? Tanta gente che muore di fame e voi pagate uno per dire quattro minchiate con quella voce di merda che si ritrova. Con quelle cacche lunghe che arrivano fino al ginocchio, lui che è alto 1,29 m e poi spara minchiate. Così è la vita, Roberto. E ci marciate con le persone. Esatto, bravo. Sembra bravo. Giusto. Giustissimo. Giustissimo, bravo. Giustissimo. Arrivederci. Alessandro dalla provincia di Roma. Va bene, Alessandro dalla provincia di Roma. Sì. Vada. Sì. Buonasera. Salve. Pronto? Allora? Sì, allora io sono esasperato, sono circondato da grillini praticamente. Cioè in che senso però, circondato da grillini? Cioè che non si possono proprio più, a parte che li vedo manifestare e fanno quel saluto con le mani che solo a vederlo ti viene i brividi, perché pensi a 70 anni fa e a come salutavano. E quindi già per quello ti vengono i brividi. Cioè in che senso? Come salutano, scusi? Cioè salutano, se vede una manifestazione, un video di una manifestazione. Ah, con le mani così, con la mano così. Vabbè, sì, ma quello che c'entra, 60 anni. Vabbè, ma sono brutti. Cioè perché salutano tutti insieme, dice lei. Sì, ma sono brutti ricordi. No, non è che fanno il no, non è che fanno il saluto romano, No, non fanno il saluto romano, ma comunque ti vengono i brividi. Vengono i brividi addirittura. Comunque poi sì, a me vengono i brividi. Poi c'è questa cosa, io sono studente pendolare, sì, e le assicuro che con 30 euro si prendono dei bed and breakfast a Roma, che sono dignitosissimi. C'è altro che dice, cioè, tre, una stanza sì, in tre, eccetera. Infatti io non riesco a capire... Ma gli affitti una stanza a casa sua, almeno ci guadagna un po'. Ci sentiamo domani, 18:30, ciao. Io ho grande stima del vostro programma e tutto ciò che è cultura. Quella sì, sera lì veramente cultura, siete caduti. Se questa è la società in cui lasciavo i miei figli, ma cioè, quale società? È un programma radiofonico. È un programma radio, ma lei, ma voi siete educatori, porca miseria. Ma siamo quali educatori? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Un gatto, che ormai è tutto finito.